Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Un'insolvenza di Cipro metterebbe a rischio anche paesi come Spagna, Italia, lo dice il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, ministro tedesco parlando al Bundestag, ma risponde secco invece il ministro italiano Passera, che dice no, diamo il senso della misura alle cose, già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato nel modo giusto. Ma sentiamo Passera, ospite questa mattina degli studi di Radio 24. Un flash di agenzia che è arrivato da poco, sono le parole del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, visto che parlava di Europa, che dice che un'insolvenza di Cipro metterebbe a rischio anche paesi come Spagna e Italia. Concorda con questa affermazione? Ma diamo il senso della misura alle cose, già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato nel modo giusto, nel momento giusto. Adesso non rifacciamolo con un micro problema come quello di Cipro. Direi chiaro nella sua affermazione il ministro Corrado Passera. Intanto, per superare del tutto la crisi del debito e far tornare l'economia dell'Eurozona ai ritmi di crescita di prima del 2008 potrebbero occorrere 10 anni, è quanto ha dichiarato in un'intervista al Wall Street Journal il presidente della Bundesbank e membro del comitato direttivo della BCE, Jens Weidmann. E parliamo invece di tetto ai bonus dei banchieri, che costringerà davvero le istituzioni finanziarie ad aggirare la questione aumentando i salari. Di certo il Regno Unito non è per nulla contento della decisione del Parlamento europeo di mettere un tetto ai bonus dei banchieri. Dal 2014 infatti non potranno essere maggiori dei salari, ma c'è già chi pensa che questa decisione non farà che spingere i consigli d'amministrazione a decidere stipendi più alti. Allora noi abbiamo sentito Peter Kleppe, economista fiammingo a capo di Open Europe, che è un think tank euroscettico convinto che l'idea generale sia giusta, ma non il bersaglio. Sentiamolo. It's now also punishing all the good banks, the banks that have been. Kleppe dice: è una decisione che punisce anche le banche che hanno fatto un buon lavoro, quelle prudenti. Ora tutti perdono almeno in parte uno strumento per valorizzare i migliori e punire i peggiori. Non credo sia una buona decisione. Il mese scorso, tra l'altro, il cancelliere britannico George Osborne aveva rinnovato l'opposizione britannica all'iniziativa, affermando che questa decisione non migliorerà affatto il mercato finanziario. Sentiamo ancora Kleppe. Of course they will probably just get higher basic salaries. Probabilmente non faranno altro che aumentare i salari rispetto al bonus, cosa che peggiorerà rendendola più rigida la gestione complessiva delle banche, perché ovviamente le banche avranno ancora maggiori difficoltà a gestire la crisi. Infine il parere della Commissione europea. José Manuel Barroso, il presidente portoghese, ha detto: andiamo verso la fine della cultura dei megabonus che incoraggia i manager a prendere grandi rischi in favore di guadagni a breve termine. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare Europa in città, l'edizione 2013 del ciclo di incontri tra i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione. L'iniziativa è promossa dal Parlamento europeo in collaborazione con la Commissione UE e il Dipartimento Politiche Europee. Anno europeo dei cittadini, diritti e doveri è il titolo della prima tappa che si svolgerà a Pescara domani, venerdì 19 aprile, dalle 9 alle 13, presso l'Aula Magna dell'Università, e vedrà la partecipazione degli eurodeputati Gianni Pittella e Sergio Silvestris. Gli appuntamenti successivi saranno poi a Milano, Bologna, Cagliari e Roma. Per informazioni www.europaincittà.eu. E naturalmente ritrovate tutto su radio24.it. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono. Per ora è tutto, gli aggiornamenti con l'Europa tornano verso le 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.